noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao ragazzi, 800240024 per intervenire in diretta in tutti i convocati come ogni giorno. Tra l'altro c'è Spalletti che ci ha fatto uno spottone, poi ve lo facciamo sentire. Me l'ha suggerito Giorgio De Luca, il nostro autore, che saluti insieme a Gianmarco Ferronato in regia. Allora, siamo in piena terra di mezzo tra nazionale e campionato, però ieri ci sono state novità e ce le facciamo spiegare perché... Noi tutti siamo ignoranti se non rotolo un pallone. Ce le facciamo spiegare tra poco da Marco Berinazzo. Saluto Pierluigi Pardo, mio compagno di viaggio. Che spottone ci ha fatto? Come? Che spottone ci ha fatto? Non so niente. Allora te lo faccio sentire subito. Vai. Vabbè, dai, stravolgiamo la scala. Tanto qui libera interpretazione. Spalletti! Questa partita nasconde moltissime insidie. Bisogna fare molta attenzione. Però noi stiamo facendo tutto correttamente per essere pronti. Mi sembra già di avvertire nei tifosi la stessa cosa che si avverte noi, perché non dobbiamo assolutamente farci fregare domenica. Non deleghiamo la propria passione, il proprio tifo agli altri. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi e soprattutto sapere ci sono molti interisti in giro è sicuramente importante. Ma averli vicino domenica sarà determinante, ecco. Domenica zero deleghe, tutti convocati. Li vogliamo tutti lì. Che ve ne pare? Allora? Tutti convocati. Tutti convocati, Spalletti. Una bella 50 euro per... Sì, una bella 50 euro per il signor Spalletti, come se ne avesse bisogno, amico mio. Comunque, ciao Marco, Berinazzo, sole 24 ore. Ciao. Allora, spiegami questa storia che ieri della Lega. Non c'è il presidente, c'è però, è in itinere, in viaggio un nuovo statuto, giusto? Che è ovviamente, mi viene da dire prodromico, ma uso una parola prima. È più facile e meno volgare, deve venire prima delle elezioni del nuovo presidente, perché ci hanno spiegato mille volte che senza questo statuto nemmeno una matita si può spostare in Lega Calcio, giusto? La notizia è che l'Assemblea della Lega ha votato, peraltro all'unanimità, qualcosa, quindi qualcosa si muove sotto il cielo confuso del calcio italiano, quindi questa è la prima buona notizia. C'è stato un intervento del presidente del Torino, Urbano Cairo, insomma, che ha tirato un po' le fila di questa assemblea che altrimenti sarebbe finita con nulla di fatto, e perlomeno ci si è messo d'accordo su principi che devono portare a cosa? Una Lega che non sia più un condominio, l'abbiamo detto tante volte, con dei quorum per le decisioni praticamente impossibili, e quindi con un diritto di veto di chiunque passasse di lì. Invece l'idea è quella di avere un'azienda con un consiglio e non più un'assemblea che decida, un consiglio snello di 7 persone, in particolare poi con un amministratore delegato, un direttore generale e un presidente indipendenti, quindi con uno spirito manageriale che possano portare a appunto gestire come un'azienda questa Lega e cercare di valorizzare il prodotto calcio italiano. Si è parlato anche di altro, si è parlato del paracadute, l'idea di modificare i diritti TV aumentando la parte fissa. Oggi siamo al 40% in Italia, in Premier, Bundesliga, dove le cose funzionano un po' meglio, sono al 50%, perché bisogna dare un po' più soldi per renderle più competitive, per aumentare la fila del campionato, anche se dovrà passare l'anno modifica della Melandri. Si è parlato di come modificare il paracadute, insomma tante proposte che devono preludere, come ricordavi, poi al varo di questo statuto e alla nomina quindi di un presidente della Lega, del ministero delegato, dei dirigenti che siano capaci e di fare qualcosa, Marco, perché hanno i poteri per farlo. Io faccio l'uomo del bar, non so, Pardo, quanto ci vuole per avere un presidente? Cioè dammi una tempistica, statuto. Beh, nel poi giro quanto? Di 2-3 mesi si dovrebbe approvare questo statuto e arrivare alla scelta, selezione prima e scelta di questo manager. Cioè la figura più importante non sarà quella del presidente, quanto quella dell'amministratore delegato e del direttore generale, che sono quelli che per esempio dovrebbero poi andare a vendere all'estero i diritti TV, valorizzare il marchio Lega. Sì, sì, no, certo, ma giusto per avere dei tempi, visto che un presidente della Lega dovrebbe essere questa, insomma, rispetto alle 8. Vai, vai Pier. No, però voglio dire, è cambiato un po' il vento delle alleanze. No, io leggo ovviamente da profano, da esterno, ma questo nuovo asse Lotito Agnelli è un asse vero, oppure, perché era quella, se non sbaglio, no? Invece nella gestione precedente un po' la dialettica. Sì, assolutamente sì, Pier, però appunto poi l'intervento di Kaido, soprattutto in una situazione che è sotto gli occhi di tutti, insomma. Sì, diventa a dire caro sempre più capopopolo, eh. Beh, è stato, leggendo le cronache, insomma, di chi ha seguito i lavori della Lega, insomma, l'intervento che un po' ha spostato gli equilibri, anche perché tutti si rendono conto che se non si fanno queste riforme, soprattutto se non si fanno presto, continueremo a perdere terreno e sarebbe poi un peccato, perché a quel punto non riesci più a tornare nel gruppo delle leghe che comandano. Sì, sì, sì, questo è un discorso che abbiamo fatto mille volte. Abbiamo fatto mille volte questo discorso, insomma, alla fine forse qualche elemento, insomma, di chiarezza si è aperto anche nelle menti di chi guida le varie squadre della Serie A. Hanno capito che il giocattolo alla fine non funzionerà per tutti, ricchi e poveri. Certo. Piero, hai qualche curiosità da toglierti con Belinazzo o lo congediamo? No, Belinazzo per me è la Bibbia, quindi io lo ascolto sempre con grande, lo ascolto con grande interesse. Essenzialmente, sai, lo sa pure Marco, aspetta, che queste vicende qua mi interessano il giusto, nel senso che a me piace la parte, diciamo, il giornalismo di politica calcistica non è che mi faccia impazzire. Noi siamo uomini della strada. Mi piace un po' di più della Premier League, tanto per studiare un campionato che sì, mi sta a cuore. No, però detto questo, sembra molto interessante. Credo che, insomma, sia stata una settimana importante, perché comunque la nomina di Agnelli all'ECA è qualcosa di importante, credo, non solo per lui ma per tutto il calcio italiano. Il fatto che comunque mi sembra che ci sia un clima, no, di ritrovata unità. Mi sembra molto interessante quello che è successo ieri, questa cosa di calcio. Ascolto, essenzialmente ascolto. Belinazzo, qualcosa altro da dichiarare? Guarda, altro da dichiarare, un fiorino. Che dichiaro velocemente che quello che noi faremo, spero, tra qualche mese, in breve l'hanno fatto nel 1992, e mi taccio. Vabbè, ma abbiamo soltanto... Vabbè, è importante arrivare, piano piano. Un quarto di secolo. Cosa vuoi che sia, Pardo? Dai, su. Non essere frettoloso, abbi pazienza. Marco, grazie. Grazie a voi, a presto. Ciao, ti aspetto qui prestissimo. Allora, prima del traffico, Rino da Parma, buongiorno. 800240024, numero verde. Buongiorno. Buongiorno, grandissimi. Allora... grandissimi, immensi. Siete i miei compagni di passeggiato ogni giorno. Ti chiedo questo. E proprio tornando alla PIL del campionato italiano, del prodotto calcio che si deve vendere in Europa, ma come mai rischiamo a settembre, a ottobre, di fare le figure che abbiamo fatto dal punto di vista atletico rispetto ad altre nazioni come la Spagna, che ha cominciato nello stesso periodo sia la preparazione che il campionato? Dove sta il problema? Anche perché molti calciatori stranieri, quando vengono in Italia, tipo Matuidi, lo stesso Oves, dicono che non hanno mai fatto degli allenamenti così pesanti. Forse grazie. La spiegazione è proprio quella, Rino, Forse la spiegazione è proprio quella, perché insomma, allenamenti leggeri ti mettono in condizione prima, la condizione dura poco, ma se fai allenamenti duri metti benzina nel serbatoio, quindi è un discorso proprio fisico diverso, no Pier? Sì, assolutamente, però insomma, adesso non si può dire onestamente che la federazione e la Lega non possono andare incontro a avventura. No, certo. Quindi c'è poco da dire, secondo me. Siamo una settimana che parliamo di quella partita ormai. Beh, mi sembra che tanta roba, Sì, no, ma appunto, giustamente. Quindi mi sembra che non possiamo riproverarci molto dal punto di vista, diciamo, politico-sportivo. Uh-huh. L'abbiamo affrontata con tutte le garanzie per Ventura e non era male. Vabbè, allora facciamo così, fermiamoci per il traffico, poi torniamo su tutti questi argomenti ed altri ancora, perché stiamo aspettando il nostro amico Maurizio Crosetti. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Sei in ritardo. Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... Convocati. Ma quanto tempo, Maurizio Crosetti. Lo so, siamo invecchiati tutti. Io siamo ormai il ricordo di noi stessi. Poi tu stacchi il telefono, sei rintracciabile. Non io no dove... Sì, non ma sapevo dove ero, ho provato a chiamarti. Ma non mi hai richiamato. Faccio l'amante gelosa, Vabbè, ma il mio, sai che mi è caduto il cellulare nel sidecar, nella parte interna, si è triturato tutto, e io da allora non ce l'ho più. Sì, sì, no, mi ricordo anch'io. Sono irrintracciabile. Facebook no, cancellato, delete. E vabbè, siamo qua, Radio 24, via Monterosa, Maurizio Crosetti, Repubblica. Dicami, Lega Calcio, abbiamo chiarito tutto con Belinazzo. Partiamo da un tema leggero, peperonata alla mattina. Sì, col caprino, come dicevano con le cozze, Giovanni sì. Con le cozze. Vedi novità, Maurizio, perché Belinazzo ce l'ha spiegate. Abbiamo Cairo sempre più capopopolo, sì. Voto all'unanimità che è merce rara come l'araba fenice, sì. No? E Messi va, nuovo statuto, presidente, siamo in ritardo, che vuoi. Sull'Inghilterra si diceva prima dal 92, cioè loro sono arrivati a questo punto nel 92, passato qualche giorno, ma tanto, basta non avere fretta. No, sarebbe ora, anche perché queste logiche di cortile ci hanno portato a diventare molto meno che un cortile, una specie di pollaio con una rete intorno dove scorrazza e starnazza chiunque, queste beghe di corridoio, tutti contro tutti, poi gli alleati, i nemici di prima che dopo un minuto diventano alleati in cambio di qualcos'altro che forse in Italia, però magari all'estero, però t'avecchio sì, t'avecchio no. È un delirio anche perché stiamo parlando di un'industria, di un movimento che, come avrà spiegato, ha spiegato certamente sì, Marco Bellinazzo, sì, produce indotto, soldi, anche di credibilità, contratti. Non è un giochino, non è soltanto un equilibrio politico di poteri. È un'industria, è un'azienda, quindi no, chiaro, Maurizio, ogni giorno chiaro. Perduto è un giorno di credibilità che giorno, se ne va. Il problema è che qui si parla di giorni e anni, di me, anni, no, appunto. Sono anni, da quant'è che abbiamo un presidente dimissionario? Io ho perso il conto. Ma anche prima, avevamo un presidente che di fatto faceva un altro mestiere, che era lì perché i club più potenti o alcuni tra loro avevano tutto l'interesse che lui rimanesse e lì per manovrare tutte le loro politiche, insomma l'abbiamo detto tantissime volte in questi anni e del resto che classe dirigente ha espresso il nostro calcio? Quali personaggi Maurizio, nuovi allora, io mi attiro gli strali di tutto il mondo, 800240024, mio mondo sono i nostri ascoltatori, quindi mi attiro gli strali di tutti quanti e continuo a dire argomento della settimana. L'altro giorno Mino Raiola ha fatto un discorso che ti ricordi quando si era candidato così, per scherzo oppure no, alla presidenza della Federcalcio? L'altro giorno ha fatto un discorso elettorale, no? E io voterei per lui. Presidenza Federcalcio, presidenza della Lega. Ma lui tu, fa gli interessi ai suoi assistiti. Venite da me. Belli di mamma. Ma lui sicuramente farebbe andare la baracca nella direzione in cui vuole lui. Però io so bene che tu vorresti votarlo solo perché gli hai appena affidato la procura. Quindi anche tu sei entrato in scuderia. Chi te l'ha detto, insieme? Scusa? Me l'ha detto Donnarumma. Che gliel'ha detto Insigne, che gliel'ha detto Nedved, che gliel'ha detto Ibrahimovic, che gliel'ha detto Pardo, che gliel'ha detto che al mercato mio padre comprò. Che al mercato mio padre comprò. Posso dire invece che te l'ha detto Pardo, comunque io lo so perché Pardo è una lingua lunga. Sì, no, questo è fuori di dubbio. Ma gliel'hai detto tu che abbiamo noi io e te abbiamo firmato per Raiola. No, io non ho firmato per Raiola. Ti dico la verità, ci ho parlato l'altro giorno. Già ci lamentiamo del fatto che il campionato vive pezzi interi importanti di stagione col mercato aperto, le prime due giornate e tutto il mese di gennaio. In più, se anche i procuratori, soprattutto i procuratori bravi, pesanti, che hanno un potere come ce l'ha Raiola, si mettono a parlare così a ruota libera, per carità è legittimo, libertà di parola, però insomma, tutto il discorso su Sarri io non l'ho capito. Il discorso su Sarri e il discorso su Insigne non l'ho capito, cioè voglio dire adesso. Beh, lì faceva parte di casa sua, cioè delle logiche di casa sua. A me interessava più l'altra parte, anche perché su molti punti ero d'accordo. Maurizio, tornando ai fatti della settimana, Insomma, quando Raiola dice che Isco e compagnia in fondo non sono marziani rispetto ai nostri, bravi, no, ma bravissimi, questo, ma non sono più di discussione, ma perché deve dirlo lui? Cioè, nel senso che ognuno faccia il suo, cioè, ma a che titolo? Io devo sentire da Raiola che è una cosa che può essere anche giusta, sulla quale posso anche concordare, la esprime lui come se fosse una voce autorevole fuori dal suo ruolo. Nel suo ruolo è autorevolissimo, ma fino a prova contraria si tratta di un procuratore. Allora perché lui sì e altri no? Allora si alza su l'avvocato Pasqualino o l'amico d'amico, ma non è che l'amico d'amico dice però accidenti, il Giovinco perché no? Cioè, parla di Giovinco, di Lichtsteiner e fin lì va bene, ma non è che poi D'Amico si alza e dice però questa cosa di Robben all'Everton, tutto sommato, beh, forse però con la moglie non va più tanto d'accordo, ma che me ne importa, che me ne frega. Cioè, posso dire, io sono un po' stufo di Raiola. Possiamo andare d'accordo su tutto, è amico obbligatorio andare d'accordo su tutto. In questo sono d'accordo con Cross. Allora, premesso che ci sono due elementi fondamentali da capire. Primo, che chi ha fatto l'intervista, che sono i colleghi di CRC, Raffaele Auriemma e gli altri, hanno fatto un colpo giornalistico, e poi sai, delle volte c'è un po' di confusione, i giornalisti fanno questo, cioè devono riuscire a trovare cose interessanti che vengono riprese, delle quali la gente parla. Quindi prima di tutto complimenti, perché questo è un tema proprio di, diciamo, mozione d'ordine, si diceva una volta, certo. Questo è il primo elemento. Poi comunque chiarisco il modo in cui si prende Raiola, almeno noi o quelli che non prendono prendere appuntamenti con Raiola è praticamente impossibile. Comunicazione di servizio: normalmente ti porti il numero in diretta, lo chiami, se risponde lo butti dentro in onda. Questo è il modo in cui parli con Mino Raiola. No, e poi sicuramente è interessante ed è legittimo che lui parli, basta secondo me non prenderlo come arrogolato. Cioè, Io ne so sicuramente meno di Raiola, ma penso che la situazione dell'ambiente Napoli non sia così ingarbugliata, così difficile come in qualche modo fa capire. Poi che De Laurentiis farà bene, secondo me, a blindare Sarri. Oggi c'era sulla Gazzetta, sono tutti gli ingaggi, eccetera. È chiaro che Sarri, per la crescita che sta facendo il Napoli in questo momento, ha un ingaggio meraviglioso per qualsiasi persona come noi, ma un ingaggio che non è in linea con quello di top manager a livello internazionale. Lì il Napoli farà una scelta e deve fare un investimento, e lo farà. Secondo me lo farà, perché non vedo, così come ha rinnovato giocatori importanti, farà lo stesso con Sarri. Però ecco, questa sensazione, cioè, se si guarda Raiola, ascoltiamolo con grande interesse, però è ovvio che Raiola parla per sé. Ma certo, ma nessuno dice, altro, ma no, ma nessuno dice altro, però è un personaggio del mondo del calcio molto ascoltato, certo. E quindi dice molto quello che gli fa. Che quando parla lo farà essenzialmente e legittimamente per i suoi interessi, certo, e per le sue strategie. Ma questo non nasconde. Mi sorprenderebbe che volesse attaccare tra virgolette Insigne, e capisco anche che molti giocatori percepiscano il passione di Raiola, semplicemente fa il suo lavoro. Fa il suo lavoro e lo fa pro domo suo e per i suoi assistiti, questo è evidente. Sì, però io mi metto nei panni del Napoli, che dopo un inizio di stagione straordinario, con un ambiente che è compattissimo, che è riuscito a tenere tutti, con un allenatore che va benissimo, si deve trovare uno che rompe le palle, va bene, legittimo, no, che discutere, sì. No, ma questo è l'ultimo anno di Sarri, ma... no, condivido, Pier, condivido lui, avere qualcuno che rompe le scatole può essere fastidioso, certamente, su questo pienamente d'accordo. Saltiamo oltre oppure saltiamo indietro, facciamo due passi indietro come i gamberi, perché voglio sapere da Crosetti dove mettiamo il vecchietto Buffon. Lo mettiamo in porta, nella porta della Juve e nella porta della Nazionale. Ma no, si sa benissimo, lo mettiamo in porta, ci mancherebbe altro, il tempo passa per tutti, passa per noi, figurati se non passa per lui. Lui lo sa benissimo, ma alla fine si respinge anche qualche volta al tempo, lo ha sempre fatto. Parlare di crisi, di fine di un campione è veramente ridicolo. Che il declino abbia a che fare con il tempo che passa lo sa benissimo anche Buffon, tant'è che questa sarà quasi certamente la sua ultima stagione, è stato veramente lui il primo a dirlo. Diciamo che se in Nazionale vacilla un po', e c'è Donnarumma. Se nella Juve vacilla un po', perché va benissimo, però credo che in prospettiva la Juve debba preoccuparsi e occuparsi, però magari il titolare l'ha già trovato, insomma. Ma sì, comunque con calma, cioè non è che due errori su interventi. Buon portiere, certamente. Buono, no, è molto buono. Ma io continuo a pensare che a proposito di portieri, ci sono quelli che sono 2-3 nel mondo, che valgono dei punti in classifica, in campionato e magari anche delle coppe, e ci sono gli altri. Ci sono molti portieri di buon livello, più o meno equivalenti. Il mio pensiero è questo. Però adesso, ultima cosa, ultimo giro di valzer di commento, non con Pardo ma con Maurizio Crosetti. Beh, con Pardo, sì, Pardo ricomincia a volare in settimane e non si ferma più, ricomincia a fare la trottola, perché finalmente finito il volo del tacchino, il coito interrotto di solito di inizio stagione, si comincia a giocare campionato e Champions, e cioè Juventus-Barcellona alle porte, Barcellona-Juventus. Pardo? Sì, da dove vuoi pronto? Partire? Pronto? No, voglio partire da cosa metti nella valigia, perché insomma adesso finalmente si comincia a giocare, si gioca ogni maledetto weekend e più o meno ogni maledetta mezza settimana. Sì, grazie a Dio. Valigia metto, non lo so, mi farò lunedì, farò una telefonata a Crosetti, ovviamente parte il giorno prima, mi farò dire che clima c'è a Barcellona e sceglierò la valigia per martedì mattina. No, in valigia c'è un campionato che sembra veramente interessante, più rispetto agli anni scorsi, perché è vero che in qualche modo potrebbe essere anche semplicemente una pia illusione di tutte le antagoniste della Juve, però delle cose sono successe. La crescita delle due milanesi è un fatto. La continuità del Napoli e il fatto che il Napoli stia guadagnando in termini di costanza, di rendimento, di fiducia in se stessa mi pare evidente. La Roma probabilmente un passo indietro l'ha fatto, ma non è detto, perché poi se guardiamo la qualità complessiva della squadra non è da buttare via. È chiaro che la Roma è in una fase un po' di rimescolamento a partire dagli aspetti tattici di un allenatore nuovo. Quindi secondo me vediamo una bella finalmente stagione. Vediamo giocare, cioè secondo me fino adesso abbiamo visto come sempre degli ologrammi, delle proiezioni come i sondaggi politici, no Maurizio, sulla stagione. Sì, sì. Ti piace di più adesso, ti piace di più volo del tacchino o coito interrotto? No, io direi apericena, che è una parola che odio. Lo so, lo so. Abbiamo fatto un paio di apericene e adesso ci sediamo in una di quelle belle, vecchie, care trattorie di una volta e cominciano ad arrivare i primi, per Dio, le lasagne, i tortelloni, la pasta al forno. Si comincia a magnà. Oh. Si comincia a magnà. E che cavolo, dovranno fare? Basta stuzzichini. La pericena è proprio un'espressione che non ha motivo di esistere, perché ogni aperitivo noi sappiamo trasformarlo in cena, quindi cioè, esatto. Aperiche, cena e basta, cena. Esatto. Di che parli sabato alla Radio 24, Pardo, a proposito? Ah, sabato cominciamo con Oldani, vi aspettiamo alle 9 del mattino. Devo dire, sono molto molto gasato da questa cosa, perché io ho tre passioni nella vita: una è la musica, l'altra è il calcio e la terza è il cinema. Io e Crosetti abbiamo diverse passioni, ma comunque cazzi tuoi, insomma. Sì, detto in francese. Aspettavo una passione di Pier, che non sarei neanche sul podio, non ci credo neanche se è vero. Ma secondo voi cinema sovietico, ovviamente il cinema. Dopo vent'anni cado in queste trappole. Secondo me mi sta a dichiarare la mia assoluta dipendenza. Quindi no, stavo dicendo, e quindi facciamo questo programma alle 9 di mattina, il sabato dalle 9 alle 10 avremo un alimento guida a settimana. E vabbè, lo chef è straordinario, perché se mi posso permettere, l'ho anche verificato tra tempo, è veramente un mix di innovazione e tradizione, come dicono quelli bravi, mentre io sto continuando a sbagliare strada, è una cosa fantastica, sto continuando a fare sempre lo stesso errore, è una cosa bellissima. e quindi avremo un alimento a settimana e avremo grandissimi ospiti, per esempio insomma nella prima puntata avremo un grandissimo scrittore, un grandissimo cantante rockstar, che è Andrea Bocelli, che ci racconterà il suo rapporto con la cucina. E quindi vi aspettiamo numerosi, anche perché c'è lo spazio SOS Oldani, adesso il numero della segreteria telefonica non me lo ricordo, ma chiunque, anche vale, voi potete adesso andarci. Giochiamo, date il sito radio24.it, le vostre richieste di consigli, sì. Come faccio la valigana? Allora io vi faccio notare due cose. Cross, siamo riusciti a mandare in casino Pardo primo, e questo ci è divertentissimo. È lì che gira non trova la strada. Lì che gira. Punto primo, e come ti ho detto prima, 9 del mattino siamo arrivati alle cozze alla peperonata colazione, Esatto. Sì, comunque Oldani non fa rima con vegani, senza offese per i vegani, con tutto il rispetto, però Oldani non fa rima anche con di cucina vegetariana. No, volevo dire che la mia grande passione è girare a vuoto per delle rotonde. Ma no, ammettilo, dai, ti abbiamo mandato in casino, era il nostro obiettivo, mio e di Crosetti, e ti abbiamo confuso e adesso sei lì che giri sulle rotonde. Grazie Maurizio. Grazie a voi. Grazie, ciao. Della mano, ciao, che mi hai dato come sempre. Allora, ascoltiamo la borsa, torniamo. 800240024, numero verde. E poi Pardo vi dà consigli di, non di cucina, ma di calciomercato. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Mio nonno mi voleva molto bene, sì. Mi cantava sempre una canzone brasileira per farmi dormire. Vabbè, se per questo la canto anch'io una canzone brasileira, vuoi che te la canto? Davvero? Adesso te la canto, non ti preoccupare. Io ho imparato subito il meccanismo. Vero? Bravo. Brasil, la nostalgia è tu Brasil, Brasil sta lì, l'Italia chi? Ari, Aristotele. Stavolta non è neanche un film, è realtà. Oltre i confini della realtà, perché dalla Longobarda al Crotone 33 anni dopo, dalla letteratura cinematografica e da Oronzo Canali, Lino Banfi, Oronzo Canali, Aristoteles arriva davvero. Aristoteles Romero, centrocampista centrale venezuelano classe 95, è sbarcato al Crotone e tra poco Pierluigi Pardo ci parlerà non solo di calciomercato, ma anche e soprattutto di fantamercato. Consigli di fantamercato da Pardo. Luciano da Roma è pronto? Carta. Ciao, e penna. Buongiorno. Buongiorno. Non so, vabbè, se lei fa il fantacalcio. No. No, mai fatto. Mai fatto, vabbè. Mai fatto. Io, una volta ho vinto il campionato e mi sono ritirato. Ma ci vuole troppo impegno, non riesco a stargli dietro. Dica. Allora, la domanda, vabbè, i complimenti alla trasmissione sono scontati e quindi, proprio perché è una trasmissione insomma autorevole, una delle migliori da ascoltare in Italia, perché non dico calcare la mano, ma comunque almeno essere un po' più chiari insomma rispetto all'argomento Lega e perché il calcio italiano è ridotto come è ridotto, no? Perché tante persone pensano che sia un agente atmosferico, è venuto la pioggia, è venuta la grandine, guarda, la Bundesliga ci ha superato, o la Premier League sta dove sta, no? Spieghiamolo, il rapporto tra Serie A e Serie B inglese, dove dividono la torta in due terzi e un terzo, la Serie A prende due terzi, la Serie B prende un terzo, eccetera, eccetera. La domanda è, qualcuno, tanto oramai se ne sono andati, voglio dire, non è, speriamo che non sia più un pericolo neanche per voi che fate il lavoro che fate. Galliani non c'è più, Berlusconi non c'è più, e quindi tutta la pantomima dei Preziosi, dei Zamparini e di tutti gli amici degli amici che gli hanno retto bordone per tutti questi anni è finita. E guarda un po', non appena questi signori tolgono il disturbo, dopo decenni, non anni, lustri, dopo decenni di presa in giro del mondo che rideva di noi. Io una volta ho visto un giornalista autorevolissimo americano che gli veniva spiegata la situazione italiana. Questo lo sappiamo, ma concluda il concetto, perché sono curioso. Il concetto è, adesso finalmente si potrebbe ricominciare a fare quello che dicevate voi prima, che viva Dio andava fatta 20 anni fa. Dobbiamo vendere l'immagine nel mondo, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, e non bisogna più dividere i diritti televisivi della serie 90 me li prendo io e uno lo prendete voi. Io poi sono la stessa persona che gioca con la squadra, gioca nello stesso campionato, della quale poi faccio anche come terzo ruolo, chiaro, del tavolo rotondo, il diciamo rappresentante di uno dei poli televisivi, chiaro, che va là. No, chiaro. Chiaro, fino a un certo punto io capisco. Io mi sono fermato ai complimenti iniziali, per cui ringrazio Luciano. Non è sinceramente molto chiaro, nel senso che appunto io nella comprensione mi sono fermato all'inizio. E che condivido pienamente, come diceva Benignazzo, che stiamo dietro, questo non ci sono dubbi. Non è che non siamo indietro o la ripartizione dei diritti televisivi è stata decisa così tra una squadra e l'altra, quindi tra grandi e piccole, perché c'erano Berlusconi e Galliani. Non lo dico perché è una decisione che sarà presa a larga maggioranza e dove chiaramente l'interesse rispetto ad altri campionati. Poi Beninazzo ci ha spiegato che noi siamo, per esempio, rispetto all'Inghilterra, ovviamente abbiamo una ripartizione dei diritti televisivi più squilibrata a favore delle grandi squadre, ma tutte le grandi squadre, la Juve, l'Inter, il Milan, il Napoli, la Roma, il via ascendendo. Beh, certo. Ma questo, rispetto alla Spagna, per esempio, invece abbiamo un sistema che è più equilibrato. E comunque il problema principale è aumentare la quantità di risorse, perché a maggior ragione se le risorse sono quelle. Lo so, fratello mio, ma non è facilissimo. Questo non è facilissimo, non è perché facilissimo all'Inghilterra, in Inghilterra la gran parte delle risorse, sappiamo bene, arrivano dalla vendita dei diritti televisivi in Oriente. Quindi sono discorsi anche lunghi e complessi. No, voglio solo dire una cosa: la stragrande maggioranza delle decisioni, perché questo è un fatto proprio storico, la la stragrande maggioranza delle decisioni che sono state prese in questi anni in Lega sono state prese all'unanimità, anche la famosa asta sui diritti televisivi della quale tanto si è discusso, che poi si è risolta in una cosa che è stata completamente sgonfiata, era stata fatta all'unanimità, credo solo con l'astensione della Fiorentina. Luigi, visto che è giovedì e ancora estate, asta e diritti televisivi ne parliamo un'altra volta, parliamo dell'asta del fantacalcio, che mi diverto di più. Hai voglia? Coinvolgiamo anche Nandorsi, così facciamo consigli sul fantacalcio con Pardo e Orsi. Mamma mia. Top, siamo al top. Come dici, Pardo? Siamo al top. No, la Pardense non vince il campionato da troppi anni, fra l'altro. La Pardense, faccio il fantacalcio dal 92, però una squadra che si affloscia di anno in anno in maniera drammatica. Allora, fatemi i nomi. Portieri, perché poi mi mettono sempre l'asta quando non posso. Quindi se mi sento qualcuno degli altri 11. Boicottaggio di Pardo. Portieri. No, aspetta, io ho ricevuto una letterina stamattina, un messaggino, un messaggio WhatsApp da De Luca che mi diceva che devono avere delle caratteristiche. No, portieri, io ti dico Andanovic, Buffon, No, ma è chiaro che stiamo cercando delle chicche da regalare. Dilla te, da ego io. Da 20, poi ognuno ha i suoi parametri economici. Ci sono le aste più ricche e le aste meno ricche. Vabbè, possibili sorprese alla voce portiere. Io penso che Berisha sia una buona scelta. Stracoscia è una buona scelta, secondo me, però bisogna vedere ovviamente poi nell'asta a quanto si sale. Fuggioni può essere una cosa interessante a poco prezzo, e poi non mi ricordo che altro. No, hai detto Stracoscia, Berisha, Fuggioni, punto. Nandorsi, possibili sorprese di questo. Le possibili sorprese sono Perin, sono Stracoscia. Ma la terza mi posso prendere il portiere del Sassuolo. Come dire, chi ha consigli? Perché io su Perin ho un dubbio che è legato non tanto a Perin, che è bravissimo, ma al fatto che il Genoa ha un modo di giocare che potrebbe essere. Lo so, però sai che c'è, Pierluigi, che quando te fanno 10 di rimporto e prendi 3 gol, il portiere prende 7. sì, vero. Che quando prendi gol, forse ti abbassa la media. Però se prendi 3 gol, ogni gol c'è ragione, è vero, ragione. Però Perin, vabbè, però. Vabbè, ragazzi, difensori, dai, datemi qualche nome di difensore, possibile sorpresa, possibile rivelazione. Che t'ho mandato, non mi ricordo. Vabbè, ok, faccio io. Non si può giocare con te. Kolarov, D'Ambrosio, Padoin e... come si chiama, Giorgio? Non ho ancora imparato. È il lodo Caresta, Pardo, Piccinini, di tutti i telecronisti, per evitare ovviamente pronunce imbarazzanti, questo accento proprio provvidenziale, Nkulu. Senti come più morbido, Nkulu, e porti a casa il risultato. No, allora, vabbè, Kolarov mi piace la matti, bisogna però vedere a che livelli si arriva, poi tra l'altro sta segnando in nazionale con la squadra, con la Roma, quindi probabilmente non riesce a prenderlo a prezzi bassi. Sì. Padovic, secondo me, è una scelta intelligente, ovviamente comprata a poco. D'Ambrosio, secondo me, è un giocatore che non è male, perché l'Inter ha una sua quadratura, D'Ambrosio è uno che spinge. In generale, meglio gli esterni dei centrali, questo mi sento di dire, perché gli esterni, per quanto riguarda i difensori, rischiano meno di prendere potacci rispetto ai centrali di difesa, no? Mediamente, no? Gli esterni di spinta, anche giocatori non proprio... Di grandissima fascia, ad esempio Gobbi è uno che io ho nella mia povera partenza da anni e fa pienamente il suo dovere, poi non segna, però è un esterno che raramente prende un voto basso, quindi più gli esterni che centrali. Nando, hai qualche nome che ti viene in mente alla voce difensori? Ma i difensori a me piace, io prendo De Fraia, Acerbi, Conti a destra. Lì a sinistra non vado d'accordo, volevo dire anch'io Kolarov. Sì, quindi è uno che però, fa gol, sappiamo che è uno che fa gol, uno che va, cioè, insomma è prezioso. Andiamo un po' di corsa, centrocampisti. Pardo suggerisce Borja Valero, Taider, Iago Falk e Birsa. Sì, giusto? Anche qui chiaramente mi hanno chiesto centrocampisti che non costassero molto, poi certo, Borja Valero è un pallino di Spalletti da sempre, dai tempi della Roma, e quindi mi sembra uno, e già come è entrato mi sembra uno che giocherà spesso, non segna molto, però un giocatore di grande geometria, dai voti abbastanza certi. Taider può essere l'anno, secondo me, della consacrazione, è un tipo di sempre di scommesse a low cost, mi sembra interessante. Gli altri chi erano? Cioè, ho la memoria che Iago Falk e Birsa. Tutti, chiaramente, tutti i centrocampisti offensivi sono interessanti, quindi bisogna vedere anche nella vostra lega se questi giocatori qui, se li fate essere centrocampisti, certo, o attaccanti. Io dalla mia squadra, per esempio, Perotti da 3-4 anni, che è un centrocampista, e chiaramente Perotti centrocampista, spero che nessun altro degli 11 della Lega mi cambi ruolo, perché è buono. Nando, qualche centrocampista che può essere sorpresa? Ti dico Berenguer a destra, Perotti a sinistra, poi metto Vesino e metto Parolo. Ah, però, mica male. Parolo pure, mica anche Parolo. Parolo è uno che prendo sempre anche al non solo nel fantacalcio, ma se è andata bene, Parolo ti fa 7-8 gol. Bravo Nando, gli inserimenti lui è bravissimo, inserirsi a colpire di testa è bravissimo, lo sappiamo bene. Esatto. State parlando con uno che l'anno scorso ha venduto Dzeko, dopo la stagione che ha fatto 8 gol. Ah, no, chapeau, bravo. Ma è giusto che vince il fantacalcio, Che vince va, dai. Ho preso Handanovic, Parolo, inglese, dovevo fare la squadra, ragazzi, l'ho disperato, ho dovuto fare il prego l'ultima giornata del cavallo scorso e lui ha fatto circa 157 gol l'anno scorso, però va bene. Chiudiamo con gli attaccati, dai. Pardo vota Policano, Pavoletti, Politano, Pavoletti e Borriello come... Borriello pure io, me l'hai fregato, me l'hai rubato. Anche io Borriello. Anche a me piace Borriello, perché Borriello ormai sembra sia stato toccato dal Signore quando ha fatto il squadre qua. Ogni anno fa gol a raffica. Però scusate se mi prendo Ciruzzo Immobile, che secondo me quest'anno sarà Ciruzzo Immobile, però non è una certezza. È la stella della partenza. Che dobbiamo fare? Immobile attorno a lui, anche Quagliarella, attorno a loro due ruotano. Però, sì, però anche Zapata non è male lì alla Sampdoria. L'ho preso. Zapata, Quagliarella, Immobile. Ma sei andato proprio a risparmio per Luigi. Cioè, quanto c'è? 10 milioni da spendere. Volevo dirvi una cosa, altrimenti. Cioè, noi facciamo il fantacalcio dal 92, quindi ci portiamo le squadre. Probabilmente ha avuto anche Nando Orsi. Veramente ce le portiamo dal 92, quindi non è che ogni anno io possa scegliere. Poi mi metto sempre l'asta quando non posso. E quindi fanno apposta, ecco, però, là, in contumacia. L'attacco Immobile, Quagliarella, Falcinelli non è male. Non è male. Allora, ragazzi, vi saluto e vi ringrazio. Ciao Nando, ciao Piero. Ciao, ci sentiamo domani. Allora, adesso rapidamente, però voglio farlo, andiamo su a guardare altro, perché non c'è solo il pallone che rotola, la Lega Calcio, queste robe qui. Perché a New York, ad esempio, tennis, Federer, Sua Maestà, esce contro Del Potro in 4 set, mentre Venus, intramontabile, Williams, a 37 anni, va avanti ed è in semifinale. Alla Vuelta, ragazzi, si stanno divertendo, perché Nibali ieri, tappa di montagna bellissima. Secondo in classifica dietro a Froome a 1,16, quindi partita apertissima anche ovviamente per la nazionale di basket, che ha passato il turno, continua la sua strada europea. Adesso si va a Istanbul e si comincia a giocare la fase ad eliminazione diretta, quindi partite da dentro fuori. Noi siamo pronti, Max Menetti, allenatore di Reggio Emilia, siamo pronti? Prontissimi. Come vedi questa nazionale, Max? Aspetta un attimo, mi sono dimenticato un appuntamento. Di vederla bene. Aspetta un attimo, Max, ti chiedo scusa, mi sono dimenticato un appuntamento che insomma, parliamo. Però abbiamo il traffico, me l'ho dimenticato. Con pardon, Max, arriviamo. I love this game. Tutti convocati. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta. Tutti convocati. Ha interrotto Max Menetti, allenatore di Reggio Emilia, sul discorso nazionale di basket. Allora, Max, io ho parlato con Regal Cadiz, insomma, parlo tutti i giorni. Questa nazionale a me piace molto, mi sembra una squadra che ha meno stelle, però una squadra. Sto dicendo le banalità, però basta guardarla giocare. No, devono essere. È una squadra che è partita con probabilmente dal momento del purtroppo dell'incidente Gallinari, tra virgolette, è evidente che ha preso una strada completamente diversa. Ecco, mancano, tra virgolette, tre giocatori importanti come Bargnani, Gentile e Gallinari, e per forza la strada intrapresa doveva essere quella. È evidente che tutti noi, ma anche soprattutto i lavori, speriamo. Di trovare una grande nazionale. È evidente che i risultati per ora ci hanno un po' disorientato, nel senso che siamo passati da grandi partite a partite dove abbiamo fatto molta fatica, però credo che la vittoria con la Georgia sia stato un buon segnale, ecco, perché era una partita facile da lasciare lì, tra virgolette, e invece il modo in cui i ragazzi l'hanno portata a casa e l'hanno anche festeggiata può essere, insomma, quei segnali di una squadra tosta, ecco. con gli attributi. Con gli attributi, questo l'abbiamo capito, anche una squadra molto attenta, molto, molto precisa nelle esecuzioni sia offensive che difensive. Adesso comincia il bello, comincia la grande danza. Cosa ti ha impressionato in questo europeo fin qui? Cosa ti è piaciuto? E aggiungo come ultima cosa, si può fare strada senza stazza, senza centimetri, senza chili? Questo è la stazza, è il grande problema, ecco. Perché, ma diciamo che non sarà il problema che avremo con la Finlandia, perché adesso il problema più grosso è più che pensare a quello che succederà negli eventuali turni successivi e quello che troveremo nella prossima partita. Ma è evidente, lo spirito è piaciuto, l'esecuzione è evidente che una nazionale di Messina non può che passare attraverso difesa ed esecuzione, cosa che magari anche lui non era riuscito a fare nei pochi giorni nella preparazione per il preolimpico. Devono trovare continuità, è evidente che siamo anche un po' vincolati alle percentuali di Datome e soprattutto i Bellinelli, ecco, questo è evidente. Fatale, questo è fatale. Grazie Max, un abbraccio forte. Grazie a Max Menetti, allenatore di Reggio Emilia. Allora continuiamo ad accompagnare l'Italia e gli europei, e domani accompagneremo la Ducati e Dovizioso verso Misano. Io voglio farvi sentire il Dovi che arriva a Misano in casa dal leader del mondiale sulla rossa. Cosa volete di più dalla vita? Dovizioso. Arriviamo a Misano in un modo inaspettato. E arriviamo da leader in campionato ed è una sensazione bellissima. Non avrei mai immaginato di arrivare così competitivi in questo momento della stagione, però ce la godiamo. Tanta pressione, tutti vogliono che noi arriviamo davanti, si aspettano tanto, ma cercheremo di non sentire troppo questa pressione, cerchiamo di goderci il bello di essere in questa situazione e posizione. E che grande ballo cominci, grande ballo del weekend che comincia domani. Ovviamente avremo Racing Team, parleremo con Leo Durrini, con Roberto Ungaro, anche e soprattutto di questa corsa, con un grande ospite che è stato annunciato, ma non vi rovino la sorpresa. Saluti invece e ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, sentiamo domani alle 14. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!